Do il buongiorno ad Alessandra Rostagnotto, autrice per Bao Publishing del fumetto Disco Sogni. Buongiorno Alessandra e benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Buongiorno, buongiorno anche a te. Allora Alessandra, il tuo fumetto ci catapulta, ci porta direttamente nel 1985 sul grande palco dell'Ariston di Sanremo con le storie di Ambra e Giovanni. Ti va di raccontarci qualcosa di più su questi protagonisti e sul motivo per cui si trovano su quel palco così importante? Allora, tutto parte, diciamo, sono due ragazzi della Riviera Ligure, negli anni 80 hanno grandi sogni, vogliono lei fare la cantante, lui fare il ballerino, però non hanno granché successo già solo nella discoteca di provincia. E allora, però hanno comunque sogni molto ambiziosi, niente, trovano un produttore musicale in pensione che si trova in una situazione di dover creare un personaggio da mandare a Sanremo e decidono così di creare quello che si faceva tanto negli anni 80, di creare questi cantanti fantoccio, diciamo, utilizzando il bell'aspetto di Giovanni, il ballerino, e invece usando la voce di Ambra, quindi creando un personaggio del tutto inventato che poi ha la possibilità di andare a Sanremo. Funziona così, funzionava così all'epoca, ecco. Ti volevo chiedere, Alessandra, anche da dove arriva l'ispirazione per la storia e che rapporto hai appunto con il festival di Sanremo, se ci sei particolarmente legata, ecco. Sì, no, l'ho sempre guardato, sempre in modo un po' ironico, diciamo, nel senso, l'ho sempre visto un po' come la musica italiana, l'ho sempre vista un po' così, diciamo, c'ha i suoi lati un po' più così di cattivo gusto, però le cose comunque le sappiamo fare bene, ci sono tante belle canzoni degli anni 80, cose che bisognerebbe andare a riprendere. E sì, c'era un po' questa, l'idea della storia parte particolarmente da tipo The Narrow, non so se hai presente, appunto anche lui era un cantante fantoccio, nel senso all'epoca si prendeva il belloccio di turno e poi c'erano coristi, chiunque, un sacco di gente che lavorava per creare queste canzoni e creare questa, un po' questa musica che sembrava più merce che musica, però in realtà rappresenta un po' quel periodo lì e sarebbe bello da esplorare di nuovo, ecco. Citavi appunto l'importanza delle canzoni, ti volevo chiedere se ti sono state di ispirazione, quali canzoni magari ti sono state di ispirazione e tra l'altro ho visto anche che hai fatto una playlist apposita alla fine del fumetto. Sì, no, assolutamente. Diciamo che l'ispirazione a questo fumetto arriva più che altro dai video musicali, dalle canzoni, ma anche proprio dal lato estetico tutto intorno. E quindi sì, ho visto tanti videoclip, tanti video, ho deciso di fare questa playlist comunque per il report, nel senso il fumetto non si può ascoltare e quindi l'unico modo che per riportare abbastanza il lettore a quell'epoca lì era sicuramente con la musica, quindi ho pensato che fosse doveroso mettere anche una playlist. Parlando invece dello stile del fumetto, dei suoi colori, ti volevo chiedere a che cosa ti sei ispirata, ricordo ovviamente molto anche gli anni 80. Sì, io per lo stile di disegno diciamo tantissimo i manga, io sono nasco come fumettista più che altro stile manga, quindi tutta l'epoca degli anni 80 io tipo Rumiko Takahashi che ha creato tutti i manga dell'epoca, la Mu, Ranma, poi anche Sailor Moon, tutto questo ambiente qua, partendo sia dai manga che poi dagli anime che hanno fatto dopo, sono andata a copiare proprio lo stile dell'animazione, come facevano gli sfondi, come facevano la line art dei personaggi, quindi sì, e per riportare proprio il lettore anche a quello che ha visto negli anni 80 e inizio 90. Bene Alessandra, io ti ringrazio per averci fatto entrare dentro il tuo fumetto Disco Sogni e ricordo che appunto è già uscito in tutte le librerie per Bao Publishing. Grazie ancora Alessandra. Grazie davvero.